portami un caffè, sono qui per te. Ho bisogno di un amore ora, qui vicino a me, qui vicino a me. C'è un bicchiere mezzo vuoto, sai, non lo so, perché non ha smesso di fumare, dai, che mi va di raccontarti la mia piangere. Porta tu le mie valigie, ora tu mi crederai, ci divertiremo, fai salire le tue amiche, sai che mi va. Sai, ho bisogno di cantare, dai, sono qui, racconto.